As a Brick, Jethro Tull, vi dicevo, in arrivo quest'estate, il 30 di giugno a Roma, poi saranno il 2 luglio al Teatro Arcimboldi qua a Milano, ma vi consiglio a mio avviso il 5 luglio Pistoia, Piazza del Duomo, per l'anteprima del Pistoia Blues Festival, e poi sarà una nottata anche per l'ambientazione magica, quella del Teatro Antico di Taormina, il 6 di luglio, Taormina sul mare in un teatro antico all'aperto, deve essere una serata assolutamente favolosa. Questo per Jethro Tull, ma anche la prossima band, i Queen con Paul Rogers, oltre a pubblicare il nuovo album nel mese di settembre, arriveranno per due date, il 26 settembre al Pala Lottomatica di Roma e il 28 di settembre saranno dal vivo al Dutch Forum di Milano. Questo per i Queen con Paul Rogers. Invece qui abbiamo i Queen con, naturalmente, Freddie Mercury. Well, you're just FM. This is John Lord. Used to be in Deep Purple. Still playing, and I know the radio station is going off the air, but all of you who are listening, keep the faith with the music. Keep listening. God bless you all. Yeah. questa è una delle tante versioni che esistono, diciamo, questa è l'originale, poi sono state riproposte, rifatte da Glenn Hughes, John Lord, perché mi hanno chiesto chi era l'ID, cioè il messaggio che è stato posto in onda prima di questo brano, era proprio John Lord, caro Marco, quindi l'ha rifatta poi Glenn Hughes e tantissimi altri grandi vocalist ed artisti. Deep Purple su Rock FM con le note di Mistreated, saluto anche Yuri da Ravenna che non aveva capito bene che cosa abbiamo detto. Beh, il primo di giugno, allora, primo di giugno che è una domenica, tutta la ex Rock FM, perché dal primo giugno già non esisterà più, quindi la Rock Family, tutti noi della radio praticamente, saremo alla Flog di Firenze. A far cosa? Non lo so, sarà una festa, saremo sul palco, qualcosa combineremo. Quindi sarà decisamente una festa per tutti gli amici della Toscana, ma spero anche di altre regioni che possano venire. Ancora una volta ringrazio Isidoro, erano buone le brioche che ci hai gentilmente portato e regalato venerdì notte, sono finite tutte, tranquillamente se le sono sbaffate, le abbiamo sbaffate tutte noi, ti ringrazio, al termine del programma, quando era ormai mattina ed era il momento della colazione. È tempo di regalare il biglietto, ne abbiamo ancora uno ed è l'ultimo per un concerto che si terrà proprio domani, unica data nazionale per questa band che è da vedere dal vivo, sono molto coinvolgenti come il loro sound, Flogging Molly, domani martedì 20 maggio al Music Drome qua a Milano. Quindi chi vuole andarli a vedere dal vivo può inviare a partire da ora il proprio nome e cognome al 335-100-7777. La prossima canzone invece ci porta ad un altro compleanno relativo alla giornata di ieri, 18 di maggio del 49, nasceva William Wallace, componente dei Guess Who. Il compleanno del giorno. Oh, man! Woman, la formazione canadese dei Guess Who, che abbiamo riproposto quest'oggi con il loro grande successo in questione American Woman per il compleanno di William Wallace, nato nella giornata di ieri, 18 di maggio del 1949. È tempo anche di, beh, questa è una novità, l'album arriverà tra pochi giorni, verrà, è un doppio album, verrà pubblicato tra pochissimo, anche naturalmente in Italia, un doppio album perché il primo CD sono canzoni completamente nuove, il secondo sono una specie di best of, greatest hits, dei loro brani completamente risuonati, e stiamo parlando della formazione dei Journey. La cosa molto particolare è che verrà distribuito in Italia da un'etichetta italiana, anzi in Europa, che è la Frontiers Record, e questo mi fa enormemente piacere. La particolarità è che la formazione dei Journey ha un nuovo vocalist di origini filippine, anzi filippino proprio. Se la cava, secondo me, egregiamente. Ascoltate anche il singolo, che ricorda moltissimo nella proposta vocale proprio Steve Perry. Journey, questa è After All These Years. Il titolo del singolo americano After All These Years per i Journey, l'album si intitolerà Revelation e ripeto ci sarà per la versione europea anche una bonus track, un brano in più, oltre ad un bonus CD con 11 classici, 11 hit della band completamente riregistrati. L'album arriverà tra pochissimo dal titolo Revelation. Invece, il prossimo pezzo è firmato Neil Young.